un mondo difficile, lo so, però è meglio. Musica allo stato puro, ti ripigli di sicuro. Sarebbe bello essere nuvole, avere un mondo da inseguire, fermarsi solo un attimo e se c'è noia scomparire. È il programma col cuore di un bambino, è il cammino di Gigi D'Agostino. Musica più lenta che pace, che spera, veloce per più lenta, violenta e sincera. Musica più lenta che mace, che spera, veloce per più lenta, violenta e sincera. Chi viaggia poco resterà piccino. Il cammino di Gigi D'Agostino. Signore e signori, è arrivato lui, il folclorista, Gigi D'Agostino. Buongiorno. Oggi è giovedì. Oggi è giovedì 25 maggio 2006. Buongiorno. Oggi è 25 maggio 2006. E questo è il cammino di Gigi D'Agostino. A noi non piace perdere tempo. A noi non piace perdere tempo. Quindi? Quindi? Passiamo subito ai fatti. Passiamo subito ai fatti. Questo è il primo brano. Questo è il primo brano. Sono legato, trastornato da una storia che non ha più storia, che mi mancherà come l'aria. Sono rovinato, sono sputtanato, nel sangue c'è un valore che non va. Sarà forse l'alcol che non mangio, né frutta né verdura mai. Sono eccitato al solo pensiero di toccarla come piace a lei, con il santo padre che mi fa un gesto, mi raccomando che rimanga tra di noi. E cammino, cammino nel mio giardino, è come un soldatino. E cammino, cammino e corro come un bambino e sparo al destino. Fino all'ultimo tiro, ma le onde in equilibrio, fino all'ultimo giorno, fino al prossimo giro, non posso fare male, nemmeno un animale, nemmeno un moscerino. Il titolo di questo brano è Cammino. Concertato e sono solo un numero, alla televisione, all'inflazione, preferisco il surf, preferisco andare in alto mare, rischiare di restare là, con un faro spento in mezzo al vento e all'umidità. E cammino, cammino nel mio giardino, è come un soldatino. Cammino, cammino e corro come un bambino e

Avete trovato il matitino per scrivere il numerino di Gigi D'Agostino? E poi dopo lì mandate la vostra dedica. 3 3 3 6 4 6 7 6 6 2. Basta niente per creare un prepotente. Yeah. Tanti soldi e il successo tra la gente. Yeah. E la paura di non possedere più niente. Yeah. Questo basta infettare la sua mente. Yeah. Di traverso. Un bel giorno ho incontrato un uomo strano. Stava fermo e mi guardava da lontano. Non so perché, ma gli vado a parlare. Buon uomo, perché mi sta a guardare? Non guardavo né te né le montagne, né il cielo, neanche il mare. Quant'altro puoi guardare? Ciò che guardo è una cosa indefinita. Sto guardando il miracolo della vita. Cammino di Gigi D'Agostino. Deep, bust bounds, the game, Mike Kelly, bro. Hardcore, Ricky, deep, bro. Bust bounds. classic game like Kelly Pro, hardcore Ricky Deep Pro. Bust down the mic, bro. Hardcore Deep Pro. Bust down the game like Kelly Pro, hardcore Ricky Deep Pro. C'era qualcosa di importante che dovevo dire che e non mi viene in mente. Ecco, sta per uscire Laboratorio 4. Dolce Pitu Paru, per ringraziarlo dei raggi di sole che ha portato nella mia vita e per fargli capire quello che a parole non posso dire. Ci fermiamo a quel minimo. Riprendiamo il cammino tra qualche minuto. Pubblicità. Tararatata. Pubblicità. Tararatata. Pubblicità. Tararatata. Pubblicità. Tararatata. Si riparte. Questo è il cammino di Gigi D'Agostino. Mi dedico lo sbaglio perché giovedì arriva Paul Oakenfold. Oakenfold. Ed io non ci posso andare. Ma il cammino alle 18 nessuno me lo può negare. Buono questo. Lui si chiama il più famoso degli eroi. È un nome comunissimo. Mi chiamo Nicola Fontana e vivo a Casal di Principe. Spero che tu legga questo messaggio perché vorrei dedicare lo sbaglio ai miei più cari amici Marco, Antonio e Antonio. Sono due Antonio. E a mio fratello Angelo. E poi dopo ancora alla ragazza più bella del mio paese, Denise. Vorrei dedicare lo sbaglio alla persona che ho amato di più e che continuo ancora ad amare. Ricky, ti amo, ton amor. Mi ha messo in vita, forse quel giorno era impazzita. Certi problemi non sono un dramma, perché è la vita che li programma. E se lo fa, sa quel che fa. Chi lo sa, quando è che sbaglia, quando ci dona o quando ci toglie. Chi lo sa, quando è che sbaglio, quando sto solo o con mia moglie. Lo sa, quando è che è meglio, se per capire cos'è uno sbaglio. Nessuno sa qual è la soglia per poter dire diamoci un taglio. Chi lo sa, se darci un taglio non sia frutto del proprio orgoglio. Non so più qual è il mio meglio, se non si scioglie questo groviglio. Fine settimana sono domani sera domani sera venerdì 26 maggio discoteca Milù Ivrea o lì intorno, comunque la zona è quella lì. Regione Poarello, località Romano Canavese, provincia di Torino, Piemonte, Italia. Mondo. Ore 23, 22, 30, 23 circa. Insomma, ci vediamo lì. Ricordo una volta quando ero molto piccolo, tantissimi anni fa, che stavo ascoltando la radio e c'era un presentatore che a un certo punto sabato sera invece, e cioè dopodomani, sabato 27 maggio. E dai, muoviti! L'appuntamento è alla discoteca Essenza, a Siena. Davvero, eh? Più o meno, da quelle parti, alle ore 23. E adesso poi lei vi darà dei dati molto più precisi. Ci vediamo lì. Discoteca Essenza, località Casetta, Castelnuovo Berardenga, Siena. Ciao Gigi, sono Melania. Volevo dedicare Non giochiamo al mio amore Massi, perché il nostro amore non è un gioco. Dedico Non giochiamo a mamma Tanz e zia Tanz. Vi voglio un macello di bene. Fatico molto a passare da una condizione di sonno molto protratto a uno stato di veglia totale. Ginnastica mentale. Fatico, fatico, fatico, fatico, fatico, fatico, fatico, fatico, fatico, fatico, fatico, fatico, fatico, fatico, fatico, fatico, fatico, fatico, fatico, fatico, fatico, fatico, fatico, fatico, fatico, fatico, fatico, fatico, fatico, fatico, fatico, fatico, fatico, fatico, fatico, fatico, fatico, fatico, fatico, fatico, fatico, fatico, fatico, fatico, fatico, fatico, fatico, fatico, fatico, fatico, fatico, fatico, fatico, fatico, fatico, fatico, fatico, fatico, fatico, fatico, fatico, fatico, fatico, fatico, fatico, fatico, fatico, fatico, fatico, fatico, fatico, fatico, fatico, fatico, fatico, fatico, fatico, fatico, fatico, fatico, fatico, fatico, fatico, fatico, fatico, fatico, fatico, fatico, fatico, fatico, fatico, fatico, fatico, fatico, fatico, fatico, fatico, fatico, fatico, fatico, fatico, fatico, fatico, fatico, fatico, fatico, ginnastica mentale. Fatico molto a passare da una condizione di sonno molto protratto a uno stato di veglia totale. Ginnastica mentale. Il titolo di questo brano è Again. E l'artista, molto precario, è Gigi D'Agostino, che sono io. La danza è moto dell'anima. Essa riceve le note, muove il corpo e nutre l'immaginazione. Ciao dalla ragazza terzinata. Questo brano, vai sul sito www o www o www. Sì, dai. Punto gigidag. Punto com. Pom pom pom pom pom. Pom. ti si aprirà la paginetta o pop-up, come preferisci. Insomma, si aprirà una cassa. Sono Gigi il sensitivo. Mo' l'aperitivo. Per il momento aperitivo, ci colleghiamo col Celestino di Scobar. Momento creativo. Assaggio l'aperitivo. Assaggio l'aperitivo. Momento creativo. Il cammino di Gigi D'Agostino. Assaggio l'aperitivo. L'aperitivo di oggi è... Il disco aperitivo di oggi è questo qua. I don't know why I'm scared of all the things I feel. Il titolo di questo brano è Mosca Matta. Io non ho capito. Mosca Matta. Eh? Buona questa, no? Come è venuta? Artista Spaghetti Trip. Yeah. Pubblicità. Tararatata. Pubblicità. Tararatata. Pubblicità. Tararatata. Pubblicità. Tararatata. Signore e signori, Gigi D'Agostino. Falling in like a soul, don't need a love. Feed my baby soul. Dreaming in like a soul, don't know what is love. Teach my baby soul. C'era qualcosa di importante che dovevo dire che non mi viene in mente. Ecco, sta per uscire Laboratorio 4. Vorrei fare una canzone da suonare con la chitarra per le strade e le persone. Vorrei fare una canzone per donare a tutto il mondo un poco di immaginazione. Vorrei fare una canzone che trasmetta un ideale se le cose vanno male. Vorrei fare una canzone anche solo per cantare, anche solo per cantare. Anziano di oggi è. sigla? Eh sì, è finita. Se n'è andata sta puntata, non mi faccio sta cantata. C'è già sotto il mio tassista, sono Gigi il folclorista. Non ti devi rattrista, sto cammino resta qua. Ma se vuoi che io ritorni, tu fai il bravo tutti i giorni. Ogni giorno io t'aspetto, sono Gigi, l'ho già detto. Mo la sigla va a sfumare perché devo respirare. Ah.